Allora, benvenute, benvenuti a Cabaret Voltaire. Questa sera ho deciso di invitare come ospite Gabriel Croso, che ha inaugurato proprio questa sera nello spazio di Exalge la sua mostra di quadri ribaltanti, che diciamo si chiamano in questo modo per il fatto che a prima vista potrebbero sembrare, diciamo, delle opere pseudo astratte che soltanto nel momento in cui vengono mosse, appunto, ribaltate e girate, scoprono un po' le loro forme, scoprono un po' anche il loro significato. E quindi forse passerei già da subito la parola a Gabriel, perché presenti un po' il suo approccio al mondo dell'arte e soprattutto poi che ci spieghi un po' questo progetto artistico che hai esposto qua questa sera. Allora, innanzitutto parto premettendo che vorrei ringraziare subito Exalge, l'Accademia, tutti quanti, la direttrice e i miei genitori per questa grande opportunità, questa grande mano, e soprattutto gli studenti di Accademia Unidee e tutto quanto, e perché davvero grazie al loro sostegno, grazie al vostro sostegno, questo è possibile oggi, questa sera, quindi vorrei veramente farvi un grande applauso. A tutti quanti, perché mi sembra doveroso, appunto. Prima sembrava una colata, dal mio punto di vista emergeva come una sorta di albero che si ramificavano e quindi da lì ho capito che dal dolore possono nascere poi diverse strade, diverse nuove strade che ognuno di noi può percorrere e che può, appunto, andare oltre a quel punto in cui ci si ferma in un momento di dolore. Da lì iniziai proprio a partire su quest'idea, appunto, del girare, no? Mi iniziai a domandare, ma io però adesso ho girato e quindi quando giro la tela, quando giro il quadro, vedo un'altra cosa. E da lì iniziai dunque a creare dei primi dipinti sempre su questi pannelli di legno che sono MDF di riciclo, e riprendendo questi pannelli non facevo più un taglio fisico con un taglierino, un coltello, ma con la pittura dividevo il dipinto in due scene, una che si rifletteva nell'altro sottostante, che venivano raffigurate. E questo per il fatto che nello stesso momento stavo frequentando, iniziando l'Accademia Unidee a Biella, dove si trova anche Città dell'Arte, Fondazione Pistoletto, e entrando subito in contatto con l'ambiente, con le opere del maestro, sono stato profondamente influenzato dalla visione di queste opere, dal riflettermi nello specchio, nei quadri specchianti del celebre maestro. E in questo riflettermi ho anche capito che lo spettatore era dentro l'opera, era incluso nell'opera e non era più uno spettatore che stava fuori. E quindi ho pensato nel mio piccolo, ma allora anch'io come posso cercare, diciamo nel mio piccolo, portare lo spettatore non più esterno, ma metterlo interno al dipinto. E da lì ho iniziato proprio appunto a fare questa serie di quadri con l'acrilico, a tagliarli con la pittura, a raffigurare due scene che si riflettevano una nell'altra e che poi girandolo, ma senza questo primo sistema di perni, si ribaltavano queste scene, come se fossero due specchi d'acqua che si riflettevano uno sopra l'altro. E man mano che andavo avanti capivo che non era molto funzionale questo procedimento, perché lo spettatore doveva staccare il dipinto dal muro e poi girarlo e riattaccarlo capovolto. E da lì è nato poi questo sistema di perni, questo concetto di unico movimento che permette la scoperta di queste forme, questi messaggi qua. Che un po' ricordano anche, almeno ne abbiamo parlato un po' insieme, poi diciamo si inseriscono un po' in questa indagine che sicuramente parte da, direi, la prima metà del secondo Novecento, e quindi sicuramente, come tu hai citato, dall'arte informale di Fontana, eccetera, eccetera, ma da prima ancora, e lo cito apposta perché il nome del mio podcast richiama questo artista, forse dalle opere di Rotative Plaque Verdi di Duchamp. Assolutamente, no? Quindi sì. Questa ricerca, sì, sì, sì, di diciamo penso di poter dire che le tue opere si inseriscano in questa corrente di ricerca di una nuova dimensione, no? Questo un po' è l'arte informale, questa è l'arte di Fontana, in qualche modo anche di Pistoletto, di ricercare una dimensione che va oltre la realtà, perché dopo un periodo di guerra in cui diciamo è stato un momento di crisi in cui tante ideali, tante tradizioni sono state messe in discussione, si è cercato di, gli artisti e gli intellettuali, i letterati del tempo hanno cercato dei nuovi valori, no? in delle dimensioni che andassero oltre a quello che c'era stato fino ad allora. E quindi sicuramente anche, diciamo, nel tuo caso questa ricerca di una dimensione altra, di cercare dei significati nascosti all'interno delle tue opere, può ricordare anche il lavoro che ha iniziato Duchamp molto prima di tutti questi artisti dell'arte informale, insomma della fine del Novecento, che in un modo geniale direi appunto ha precorso i tempi e ha introdotto con queste opere che dicevo questa idea, cioè lui studiava il movimento e quindi erano come delle, letteralmente delle sculture in movimento che si muovevano, e quindi studiava una terza dimensione attraverso, diciamo, la il paragone esatto tra il dinamico e il fisso, no? E quindi trovo molto interessante che poi invece la tua ricerca oggi non solo, cioè sicuramente ha si rifà a insomma, alla storia dell'arte del nostro insomma, italiana e non solo, però in una chiave sicuramente comunque più moderna, più vicina ai nostri tempi e che rispecchia molto la tua personalità, quindi questi colori molto accesi, anche non so se c'è se vuoi raccontare qualcuna delle tue opere nello specifico, perché hai scelto per esempio, non so, di fare il Giudizio Universale di Michelangelo piuttosto che questa opera un po' astratta che ricorda la bandiera dell'Islanda o insomma non so se ci sono delle cose più specifiche che puoi dire in merito a... Ma allora, riguardante la creazione appunto intitolata così, che è il dipinto blu delle due mani, che è stata un'ispirazione presa da Michelangelo Buonarroti, di queste due mani che sembra che si stiano toccando ma allo stesso tempo sembra anche che si stiano distaccando. L'ho realizzata perché appunto il gesto in sé mi ricordava un momento di pace, riflettendo sui tempi che corrono e che sono momenti proprio di guerra, di tristezza e dolore. Io ho pensato di ricollegare da questi due pannelli un gesto che poteva riunire non solo lo spettatore con l'oggetto stesso, ma anche dentro allo spettatore un messaggio di diciamo solidarietà, unicità, cioè unità più che unicità, unità con, non solo con lui e l'opera, ma con lui e se stesso. E ritrovando quella pace, diciamo, sperare che si riconnettesse un'idea proprio diciamo di benessere e di felicità all'interno. Infatti anche questi colori che riprendono un po' l'oro, il bianco, che io alludo un po' come dei colori divini in questo caso, ci sono queste braccia sospese nel vuoto, nel cielo, danno l'idea appunto di questa dimensione che uno può leggere nel paradiso, può leggere in un altro contesto completamente, ma che fosse un qualcosa proprio di chiuso dentro una parentesi temporale priva dai giudizi, le guerre, i conflitti sociali, diciamo un momento singolo tra l'opera, lo spettatore e questo gesto di stringersi la mano nel segno della pace. E invece il dipinto che sembra la bandiera islanda si chiama Autorità. Autorità perché noi di fronte a un dipinto che apparentemente sembra astratto, geometrico, che non si capisce bene subito che cosa vuol dire, ruotandolo si scoprono due opposti come il positivo e il negativo, questa croce che per alcune culture, alcune persone simboleggia, una volta che è dritta, un simbolo di, possiamo dire, centralità, di sicurezza, del bene, oppure paradossalmente ruotando questo pannello, questo dipinto, si trova un altro simbolo che è un'altra croce che per altre culture è negativa questa visione, ma per altre invece è positiva. Quindi sono opposti che arrivano, se ne vanno, si ruotano, e i significati ci sono e non ci sono allo stesso tempo, perché una persona di una certa cultura piuttosto che un'altra, appartenente a più religioni, può dire, cioè più religioni nel senso a religioni diverse, può dire ok, la croce dritta significa il bene, o un'altra la croce rovesciata significa il male, ma per un'altra può significare allo stesso tempo il bene e per l'altra il male, o viceversa. E quindi un po' va ad annullare questa idea stessa di simbolo come segno che emana un concetto stabilito. Tutto può essere dunque relativo e può essere e non essere allo stesso tempo. Certo, può essere interpretato in modi diversi. Certo. Allora, Gabriel è allievo, insomma è studente in questo momento, dell'Accademia Unidee, Fondazione Pistoletto a Città dell'Arte a Biella, e quindi questa sera ho deciso di invitare, oltre a Gabriel, ospite in radio, anche Maria Canella, che è la direttrice accademica, e per raccontarci un po' di questo corso di arte sociale anche, no? Perché è questo che frequenti tu, Gabriel, cioè, e in generale un po'... raccontare forse la filosofia dell'Accademia e del percorso di studio che proponete agli studenti e alle studentesse. Grazie. Innanzitutto noi ringraziamo tantissimo di questo invito Exalge e Laura, perché è un'occasione molto importante, noi crediamo, diciamo, di trovare immediatamente per gli studenti un luogo fisico, ma anche, come dire, un significato molto più ampio che Exalge ha, di politica di sostegno e restituzione dell'arte verso il territorio, per gli studenti che nella nostra Accademia lavorano su questi temi. L'Accademia Unidee, che ha la grandissima fortuna di essere stata fondata ed essere diretta da Michelangelo Pistoletto, che non solo è presente ed è una presenza continua rispetto agli studenti, ai docenti e a tutti quelli che lavorano a Città dell'Arte, ma è una presenza che ha una forza politica rispetto all'Italia e non solo, è davvero straordinaria, no? In questi giorni, anzi oggi, è la notizia uscita ufficialmente della candidatura al Nobel per la pace di Michelangelo Pistoletto. È la prima volta che un artista viene candidato a un Nobel per la pace. Questa è una cosa importantissima, nel senso che, come per altri secoli, gli anni 20, no? Del Novecento, dell'Ottocento e adesso degli anni 2000, sono anni molto pericolosi, no? Sappiamo benissimo, se apriamo un libro di storia e pensiamo soltanto alla storia dei nostri genitori o nonni o avi, cosa sono stati gli anni 20 di ogni secolo. Ecco, quindi diciamo, il fatto che un'accademia e il fondatore di questa accademia, Michelangelo Pistoletto, utilizzi quasi metta l'arte, che è sempre stato dall'inizio dei tempi, come dire, lo strumento principale dell'espressione umana, viceversa quasi rinunci al significato artistico delle sue opere, che fortunatamente sono riconosciute in tutto il mondo, per farne appunto un segno, uno strumento, in questo caso di pace e di politica sul territorio universale, ma anche su Biella, no? E quindi diciamo sul luogo dove gli studenti lavorano e i docenti insegnano e i vari uffici producono. è qualcosa che davvero è per noi fondamentale e a questo punto diventa un simbolo universale. E quindi in questo senso noi siamo molto contenti di ringraziamo moltissimo di questa occasione, di questa mostra, perché Gabriel in questo caso è un tutt'uno con i suoi compagni, i suoi colleghi di studio, che davvero come dire, rappresentano un'unica forza creativa, no? come Michelangelo ci ha sempre insegnato, un'unica forza creativa che unisce diciamo, i vari corsi di arte per il sociale, di moda sostenibile, i vari anni, gli studenti come i docenti che sono coinvolti in questa mostra di Gabriel, in cui, come dire, emerge tutto, no? Dai quadri emerge tutto il percorso che lui ha fatto, ma anche i discorsi, gli scambi, le discussioni avute con i suoi compagni, con i suoi docenti, con Michelangelo stesso. Ecco, noi siamo consapevoli ovviamente che l'Accademia è l'Accademia Unidee a Biella è un luogo piccolo, in realtà è una piccola cittadella fortificata quasi, no? Che ha un dentro e un fuori. Noi siamo consapevoli di questi rapporti che numericamente sono basati su unità, su decine e non su migliaia, no? Ma proprio per questo crediamo che sia la vera formula per il XXI, il XXII, il XXIII secolo, no? Questa riscoperta, diciamo, del rapporto dell'unità con l'unità. E quindi diciamo anche i quadri di Gabriel, io penso, non so Gabriel, dimmi tu se sbaglio, siano davvero i suoi quadri, ma anche quelli della sua generazione, della sua classe, di tutte le difficoltà avute in questi anni, e come dire, qualche cosa che appunto, come i suoi quadri cambiano in ogni momento, anche solo diciamo con un movimento geometrico, davvero sia proprio questa espressione di una necessità di un'arte non ferma, no? Non statica, sì. E che sia davvero qualche cosa che poi incide nella realtà, cioè io penso che gli studenti che si sono iscritti all'Accademia Unidee non l'abbiano fatto appunto per diventare l'artista ego, no? Individuale, individualista o lo stilista, anche in questo caso monografico, ecco. C'è questa sensazione, questo spirito di collettività che va al di là delle ideologie, e questa mostra proprio lo dimostra, e speriamo che sia, ci auguriamo, anzi siamo grati a Exalge, sia la prima di una serie di mostre. Quindi diciamo un successo di Gabriel, però anche di tutti i suoi compagni che sono qui oggi a sostenerlo. Assolutamente, grazie davvero. E mi riaggancio proprio a questo intervento per far parlare invece Cecilia, che si occupa dell'orientamento degli studenti, proprio perché se ti va di darci un po' un insight su chi sono gli studenti che si iscrivono all'Accademia, che clima sociale si crea anche rispetto alla Fondazione, rispetto a Michelangelo Pistoletto, come collaborano con i professori, le professoresse, insomma da un punto di vista proprio più sociale il clima studentesco che c'è nell'Accademia. Assolutamente, io penso che il punto forte, almeno visto dall'esterno e poi vissuto all'interno di quello che è Accademia, è proprio la vita dell'Accademia, nel senso che gli studenti che arrivano in Accademia sono personalità e tra virgolette anche personaggi completamente diversi tra di loro. Io faccio sempre l'esempio che sono un gruppo che al di fuori di Accademia forse non avrebbe mai funzionato, perché sono personalità completamente diverse tra di loro, ma insieme hanno tutti lo stesso obiettivo, ovvero creare e formare un'arte che sia per il futuro e che abbia comunque uno scopo. E questo non solo li unisce, ma fa di loro anche secondo me, grandissimi artisti singoli, ma anche in collettivo, quindi assolutamente quello è un corso di studi che è particolare, perché appunto è un corso, anche solo quello di arte, basato su un corso di arte pubblica, ma che comunque ha come obiettivo il creare e formare un artista che utilizzi l'arte come strumento di cambiamento sociale, non solo ecologico, ma anche da relazioni umane. E quindi la collettività, quando si crea un'arte del genere, secondo me è fondamentale. E quindi anche l'essere all'interno di quella che è Città dell'Arte, che è proprio una città fondata sull'arte, diventa non solo stimolo creativo, perché comunque come diceva anche Gabriel, comunque Michelangelo per lui è stato un'ispirazione, penso anche prima di frequentare l'Accademia, ma penso che anche avere le classi all'interno di quello che è il museo di Michelangelo Pistoletto sicuramente sia stato un aiuto nella creatività. Quindi è una città che è completamente circondata d'arte, ma è anche vissuta in modo artistico, perché comunque abbiamo persone che arrivano da tutto il mondo, non solo per frequentare l'Accademia, ma anche solo per visitare Città dell'Arte. Quindi è un posto dove quotidianamente hai spunti di creatività, ma soprattutto spunti di connessioni con realtà che secondo me non esistono al di fuori di quella che è Città dell'Arte. Grazie. Grazie a te. Forse concluderei facendo un'ultima domanda a cui mi piacerebbe rispondesse qualcuno delle studentesse, se vogliono, qui presenti, ma se no lascio la parola a Cecilio, a Gabriel. Diciamo, mi interesserebbe sapere da parte vostra, appunto, visto il discorso che abbiamo fatto, un po' qual è la vostra idea, visto che studiate anche, diciamo, forme d'arte diverse, però in un senso più generale, qual è la vostra idea di futuro per l'arte, quindi quello che vi ha spinti a fare arte, e se c'è appunto un fine per cui lo fate, un immaginario anche appunto comune, collettivo, legato alla fondazione in cui studiate. Mi permetto di dire arte e moda. E moda. insomma, che avete in mente? Qualcuno di voi vuole venire? Faccio quello, esatto, mobile. Dovete venire qua. Martini. Allora, per quanto riguarda, io studio nel corso di moda, e per quanto riguarda la moda, per me il futuro significa un po' riuscire a trovare un compromesso tra quello che è creare, e quindi creare qualcosa di nuovo che può essere bello sia da un punto di vista oggettivo che di significato, ma che comunque, diciamo, abbia un impatto sia ambientale che sociale, che è positivo e non negativo, e quindi fare in modo di trovare appunto un compromesso tra queste due questioni, dato che al giorno d'oggi la moda è comunque un mondo che ha più un impatto negativo che positivo sul pianeta, e quindi credo che questo sia il futuro e quello a cui noi dobbiamo aspirare. Grazie Martina. Grazie. Quindi, Martina. Un intervento anche da una nostra studentessa straniera. Assolutamente, puoi parlare. You can speak in English, there's no problem. Is it okay? It's fine. Okay. Yes. So me and Gabriel, we are studying in Art for Social Change, which is, I think, it's a really important title of art, that I rarely could see it and hear it even, because art is really effective on, and it has a really big influence on people and the society. So the main point is that art feeds from people and the society. So it's the role of art to give it back to people. So it's really important to What Gabriel does is giving a connection and bringing a connection between audience and the artist, not even artist, the art. So it's really important to have a connection between society and social and art, because the most effective thing in human beings and in this kind of world that we have is art, because art is full of passion and sense. So it's a really great way to talk and have an effect to the society. So I think this is an important, really important title for art, to know that with art we can change the social. I totally agree. Se non ci sono altri interventi e se Gabriel non vuoi aggiungere nient'altro... Ma allora, direi che appunto tutto questo che abbiamo detto stasera è assolutamente così. L'arte è una continua connessione e che non è più quell'oggetto da venerare, ma è proprio un sistema di interazione tra l'opera e lo spettatore. E quindi queste due connessioni creano un'unità. Ed è un po' quello che anche, come detto, il nostro maestro Michelangelo ci ha insegnato, ci insegna e ci trasmette dalle sue opere, del simbolo stesso di Terzo Paradiso, che tra due elementi nasce un terzo elemento che prima non esisteva. Io appunto questo processo creativo per me non si concluderà qui, nel senso che da questo continuerò a esplorare questo modo di interagire tra pubblico e oggetto e lavoro artistico, sempre di più per portare in stretto contatto la società con quello che si realizza. E spero che nel futuro quello che venga realizzato sia, diciamo, gradito sentimentalmente, oltre che vabbè, esteticamente, ma proprio a livello sensoriale, di contatto proprio, e che possa portare quello che viene realizzato anche su un piano della felicità, dell'interazione, della comunità, ecco. Io ci terrei assolutamente ancora a ringraziare l'Accademia Unidee, la direttrice Maria Canella, tutti voi studenti e voi che siete venuti a visitare oggi, e i miei genitori ovviamente, e ovviamente anche il grande lavoro e aiuto di Laura per la cura di questa esibizione. Quindi grazie di tutto. Grazie a te. C'è ancora un intervento, Francesca, mi sembra, giusto? Volevi aggiungere qualcosa? Buonasera a tutti, io mi chiamo Francesca Quadro, ho vinto una borsa di studio con Camera della Moda Italia e ad oggi ho la fortuna di vivere da 3 anni quasi un'accademia che si trova a Biella, che non poteva nascere in un posto più verde della città in cui ormai vivo, e sono tornata a vivere lì. Diciamo che vi invito tutti a visitare questa mostra, perché non è solo piena di Gabriel, ma è piena di tanti ideali che fanno parte di quello che è la nostra connessione tra il luogo in cui studiamo, l'arte che abbiamo imparato a fare e stiamo creando, e nello stesso momento la connessione che vogliamo con le persone, perché studiamo tutti fashion o arte per il cambiamento sociale e vogliamo dare un impatto positivo. L'impatto positivo avviene quando le persone partecipano nel farlo. Quindi vi invito davvero ad osservare i quadri che ci sono in questa stanza stasera, e in caso, se l'impatto positivo c'è, invitare altre persone a davvero toccarli e andare nel mondo di Gabriel, che poi è il mondo anche che viviamo tutti i giorni. Quindi grazie Gabriel, grazie e a tutti, buona fortuna. Grazie mille. Grazie mille a tutti, e niente, per chi vuole restare, adesso ci sarà un DJ set che ci intratterrà per il resto della serata. Grazie. Grazie. Grazie.